Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata: sta peggiorando la borsa, avremo un appuntamento con l'America perché ci sembra che vi sia qualche problema a livello americano sul piano Paulson, lo ricorderete, il piano di salvataggio da oltre 700 miliardi di dollari per garantire le società finanziarie da un lato e dall'altro anche le banche. Il segretario al tesoro americano poco fa, Henry Paulson, ha abbandonato il piano di acquistare asset tossici, ossia partecipazioni, investimenti tossici da parte delle banche o delle società finanziarie che le avessero in pancia, lo si legge nell'agenzia. La seconda tranche del piano salva finanza da 700 miliardi sarà invece utilizzata per facilitare l'accesso al credito da parte dei consumatori, quindi più rivolta ai consumatori. Sempre Paulson ha spiegato in una conferenza stampa che ritiene più efficace investire direttamente nel capitale delle banche, un po' sul modello britannico, che acquistare dalle banche i prodotti tossici come prevedeva il piano e poi metterli in una specie di congelatore, e poi si sarebbe visto nei prossimi anni quale quotazione di mercato avrebbero avuto questi prodotti. Quindi non più l'acquisto dei prodotti definiti tossici, derivati che valgono poco o nulla da parte del tesoro americano, e quindi levandoli dalla pancia delle banche americane, ma bensì l'idea di entrare direttamente nel capitale bancario. Ripeto, è una linea già adottata a suo tempo dai principali governi europei, è la prima volta che se ne parla in America. L'America peggiora con un meno 3,4%, il 3,8% lo perde Parigi e anche Francoforte, Londra meno 2%, Milano perde il 2,8% sul MIB, il 2,8% sull'S&P MIB. Questo nonostante un avvio di seduta non negativo per Milano. Questa mattina le borse asiatiche avevano tutto sommato tenuto, Hong Kong meno 0,7, Tokyo meno 1,3%, però questa cosa sta cambiando le prospettive, e adesso il Dow Jones si avvia verso un meno 4%, il 3,6%. Di cosa parleremo in apertura? Delle previsioni degli analisti, di tutti gli analisti, però non solo degli analisti delle blasonate banche che adesso qualche blasone in meno ce l'hanno, mi riferisco a Deutsche Bank, Goldman Sachs, la stessa Federal Reserve, Merrill Lynch. Sarà interessante leggere, molti di voi ce l'hanno chiesto, ma cosa prevedevano un anno fa? Ci divertiremo, dicevo, tutti gli analisti, perché anche gli astrologi si sono cimentati in questo compito, e siccome molti di voi ci dicono ma insomma la borsa assomiglia a una roulette, assomiglia a previsioni basate sul nulla, inviteremo un astrologa per vedere se ci ha imbroccato di più a questo punto, senza nessuna polemica e senza voler essere irriverenti, però se l'astrologia avesse previsto qualcosa in più rispetto agli analisti di banche che non hanno saputo nemmeno prevedere il loro dissesto. 349-238-6666 per i vostri sms. I titoli sul mercato: male di nuovo Bulgari, oggi perde quasi l'8% in questo momento. Ancora in pregiro meno 8, Intesa meno 7,4, è pesante di nuovo oggi il titolo, Prismian meno 7,5, Italcementi meno 6,4, Banca Popolare meno 5,6, Fiat meno 5,3, Fondiaria meno 4,8, come Pirelli e come Mediaset. Il 4,6 lo perde Banca Popolare e anche Saipem, il 4,3 l'Automatica, il 4,1 Mondadori e il 4% Monte dei Paschi. Come Finmeccanica, Ubibanca meno 3,90, il 3% lo perde Geox e anche Terna e anche Buzzi Unicem, il 2,8 lo perde Luxottica, Eni, il 2,5 Enel e anche Parmalat. Tenaris bene più 2,1, A2A più 1,6, Atlantia mezzo punto percentuale. Parleremo anche di altri temi, chiaramente c'è una decisione europea che riguarda gli ortaggi, le dimensioni degli ortaggi, zucchine, cetrioli e quant'altro, e banane europee, vengono meno le barriere poste dall'Europa alle dimensioni di questi, della frutta e di alcuni ortaggi, ma soprattutto poi avremo anche le indicazioni arrivate dall'Italia, continua infatti il braccio di ferro, ma anche un brano dell'intervista che oggi il ministro Sacconi ha rilasciato durante il nostro GR Extra Large sulla polemica, diciamo, sia di Alitalia ma sia dell'incontro informale avvenuto solo con CIS e Will oggi su molti giornali. La CGIL lo ha definito un atto che, se fosse vero, sarebbe un atto molto grave. Questo è stato il commento del segretario CGIL Guglielmo Epifani. 349-238-6666, rapidamente le notizie in breve. Il petrolio, partiamo dal petrolio che scende ancora e sfiora quota $57 a New York. L'OPEC va verso un vertice straordinario. L'OPEC è l'organismo e l'organizzazione che riunisce i maggiori paesi produttori e esportatori, potrebbe avere un vertice straordinario prima di quello programmato per il 17 dicembre. La buona notizia di oggi riguarda le bollette degli italiani. Secondo infatti il presidente dell'autorità per l'energia Alessandro Ortis, se i prezzi del petrolio dovessero rimanere ai livelli attuali, le bollette che gli italiani pagheranno per il 2009 potrebbero diminuire in maniera progressiva e significativa, prima per l'energia elettrica, poi per il gas. E arriva il bonus per il gas, 400 milioni di euro, sarà operativo tra 2 mesi, ma il ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola ha varato la relativa bozza di decreto. 400 milioni di euro complessivi destinati alle famiglie numerose o disagiate, prevede sconti sulle bollette del gas. Ancora Telecom, Agicom esamina l'aumento del canone verso un rialzo 1,26 euro secondo l'autorità delle telecomunicazioni, secondo quanto batte oggi l'ANSA. L'autorità avrebbe esaminato uno schema di provvedimento sulla proposta Telecom Italia di un aumento di 1,26 euro del canone. Prima di una decisione finale, secondo l'autorità, Agicom ascolterà le associazioni dei consumatori e sottoporrà l'aumento alle valutazioni della Commissione europea. Alitalia, cancellati questa mattina già 50 voli per quello che riguarda gli aeroporti, soprattutto Linate e Fiumicino. Il commissario straordinario Fantozzi ha detto che, a seguito delle note vicende degli aeroporti di Roma e Milano Linate, ha dato mandato ai legali di Alitalia di procedere contro ignoti presso le sedi competenti, mentre, come ampiamente atteso e annunciato, la Commissione europea ha dato via libera al piano di salvataggio di Alitalia, ma ha chiesto che vengano restituiti i 300 milioni che si configurano come aiuto di Stato. Attenzione, sarà l'Alitalia commissariata, la bad company, cioè non quella della CAI, a doverli restituire al governo italiano. Ancora, l'Euribor è ai minimi dall'agosto del 2007 al 4,3%. Per quello che riguarda invece la borsa russa, questa mattina forti ribassi, sospesa a tempo indeterminato l'indice RTS. Da inizio anno la borsa di Mosca ha perso il 65% del valore, e a questo punto la banca centrale russa non esclude un deprezzamento del rublo. E va bene, si fa per dire. Una buona notizia invece arriva da Wall Street sul titolo General Motors, che sale, è arrivato a guadagnare oltre l'11% in vista di un possibile salvataggio. Non andavano malissimo le banche italiane oggi, e tuttora Unicredito si mantiene positiva, guadagnava quasi il 5% dopo un utile del gruppo superiore alle attese. La trimestrale infatti vede l'utile a 550 milioni di euro, meno 54% rispetto all'anno prima, ma superiore alle previsioni degli analisti, che lo stimavano in 400 milioni di euro. e il numero uno Alessandro Profumo ha escluso una ulteriore ricapitalizzazione del gruppo Unicredito. Va male invece, come sentivate, il titolo Banca Popolare di Milano, che continua a essere negativo in borsa. Non è l'unico, va detto, oltre a Intesa. Infatti la Pop Milano perde il 5,2, Fondiaria perde il 5, il Banco Popolare il 4,6%, il Monte dei Paschi il 3,4%. E ieri la Popolare Milano ha annunciato nei primi 9 mesi dell'anno un calo dell'utile dal 52% a 142 milioni di euro. Sempre in tema di banche, il ministro dell'economia Tremonti, durante l'audizione in Commissione Finanze al Senato, ha detto che il prossimo intervento del governo sul sistema bancario sarà inserito nel decreto che il governo predisporrà per sostenere l'economia contro la crisi, quindi il decreto complessivo per mantenere imprese, o sostenere, scusatemi, imprese e economia contro la crisi. E tra l'altro utilizzerà prestiti obbligazionari alle banche. I banchieri, poi ha aggiunto Tremonti, rispondono innanzitutto alla legge. Gli interventi messi in campo dal governo servono solo a sostenere il risparmio, quindi i risparmiatori, che è un bene pubblico. Se la banca fallisce, i banchieri vanno a casa o vanno in galera. Se la banca fallisce, i banchieri vanno a casa, vanno in galera. Questo è lo scarto di posizione morale e intellettuale fondamentale che c'è tra la maggioranza e credo l'opposizione e i demagoghi. E poi sciopero generale della CGIL il 12 dicembre per quello che riguarda anche la situazione della crisi finanziaria, la crisi dei mutui, ma parleremo della CGIL più avanti, perché oggettivamente la polemica oggi riguarda soprattutto l'incontro tra Will e con Will e CISL con il governo, e non tanto la dichiarazione dello sciopero generale. Cambiamo tema, anzi iniziamo con il primo tema e vediamo di capire, visti le molte critiche che sono arrivate da ascoltatori vari sulla capacità degli analisti, soprattutto internazionali, non ce l'abbiamo necessariamente con gli italiani, di prevedere quello che poi è successo, anche le banche centrali, anche la Commissione europea. Vediamo di raccontare brevemente, sembrano passati secoli, ahimè al massimo si tratta di un anno fa, che cosa prevedevano gli analisti. Il 7 maggio del 2007 Goldman Sachs diceva la recessione in America è improbabile fino alla fine del 2008, per cui anche nel 2008 registreranno una solida crescita degli utili le imprese americane. E poi il 21 dicembre del 2007, quindi nemmeno un anno fa, Deutsche Bank: nelle prossime settimane salirà il tasso di inflazione nell'area euro e ci sarà una fase mondiale di transizione sui mercati. Poi nel gennaio del 2008, quindi siamo già a quest'anno, la Federal Reserve ha detto la maggior parte dei titoli americani, dell'economia americana, riacquisterà vigore nella seconda metà del 2008 e non si prevede, lo disse lo stesso Bernanke, una recessione in America. E ancora David Rosenberg, Merrill Lynch, sempre a inizio anno: la crisi somiglia più a quella del 91 che all'esplosione della bolla internet. Come se non bastasse, molti analisti dicevano: non vi preoccupate, nel 2008 il 60% della crescita arriverà dal PIL, della crescita del PIL mondiale arriverà dai paesi emergenti. E sempre a fine 2007 la maggior parte degli analisti intervistati da vari settimanali diceva: beh, saranno listini un po' ballerini, però invitiamo alla prudenza. Insomma, prudenza. Da inizio anno hanno perso il 40, se non il 50% le borse di tutto il mondo. Insomma, nessuno ci aveva azzeccato. Questo per dire che l'economia e la finanza non sono solo scienze tristi. Delle volte hanno una difficoltà a essere scienze tout court. E adesso vi leggo un'altra previsione. Il punto di massima debolezza dell'economia e delle borse mondiali sarà tra il 2008 e il 2009. Lo scriveva nel 1999, quindi 9 anni fa, Grazia Mirti, che saluto per essere in collegamento con noi. Buonasera. Buonasera a voi. Lei per quale banca di investimenti lavora? Io non lavoro per nessuna banca di investimenti, ma anzi mi occupo di astrologia, che è una materia notoriamente borderline e spesso molto sospettata. Allora, se ho ben capito, in un libro che tra l'altro pubblicò al Sole 24 Ore, il libro non è più Investire con gli astri, il libro non è più in edicola, lei aveva dava diverse indicazioni e ha previsto, ora so che alcuni viene da ridere anche in regia al nostro tecnico, però viste le previsioni che abbiamo letto di Goldman Sachs, Deutsche Bank, Merrill Lynch, abbiate pazienza, faremo anche le previsioni degli astrologi. Non mi sembra che i grandi guru delle banche ci abbiano azzeccato così tanto. Dicevo, lei nel 99, in un libro pubblicato da Sole 24 Ore, Investire con gli astri, prevedeva il massimo della debolezza dei mercati dell'economia tra il 2008 e il 2009. Diciamo che sicuramente ci ha azzeccato più degli analisti, ma come mai? Riportando tutte le varie teorie in materia di economia e finanze, mi ero riferita a una teoria elaborata dalla scrittrice statunitense Louise McWhirter, la quale nei primi anni 30 aveva scritto dicendo che l'economia e le finanze degli Stati Uniti sono strettamente collegati dal punto di vista dei cicli con l'andamento del nodo della Luna, che tecnicamente è il punto di intersezione tra l'orbita della Luna e l'eclittica celeste. Ha una durata di 18 anni per percorrere tutto lo zodiaco, e lei diceva che quando il nodo della Luna si trova in acquario, come appunto sta succedendo adesso, lì ci sono tutti i down dell'economia americana. Quando invece si trova in leone, vedi la presidenza Clinton, ecco che allora ci sono gli up dell'andamento dell'economia americana. Quindi io, riportando questa teoria, ero andata a cercare quando sarebbe stato il successivo down, indicando appunto il 2008 e il 2009, per cui non avevo fatto nulla di straordinario se non applicare un'ipotesi che finora non è mai stata comunque smentita dai fatti, e questo è abbastanza particolare perché ormai sono trascorsi oltre 70 anni. Allora, il picco, cioè, di euforia si registra nei mercati quando il nodo lunare transita nel leone. L'ultima volta fu tra l'ottobre del 98 e l'aprile del 2000, quando Wall Street, guarda caso, toccò il record storico a marzo del 2000. Ora, vedo che molti di voi apprezzano il taglio e capiscono che si può essere ironici, ma anche allo stesso tempo critici con chi invece si dava molte più arie quando faceva previsioni sui mercati, e costava anche un pochino di più averle queste previsioni. Quanto a consulenza, andiamo avanti. Visto che lei ci ha azzeccato 10 anni fa su quello che sarebbe successo, vorrei capire quando usciremo da questa crisi. No, intanto le posso dire questo, che io di solito alla fine dell'anno, su richiesta di gruppi di investitori e di persone che si occupano di finanza, redigo un piccolo documento in cui scrivo le previsioni dell'anno, però alla fine del 2007 io mi sono rifiutata perché erano talmente negative le ipotesi rispetto ai cicli dei pianeti che mi sono presa un anno di vacazio in modo da non fare la Cassandra e la profetessa di sventure, per cui era abbastanza evidente dai cicli astrologici. Adesso il nodo della Luna si trattiene in acquario fino ad agosto del 2009, per cui chiaramente dobbiamo ancora trascorrere un periodo sostanzialmente non breve prima di vedere dei veri miglioramenti. Poi, dice la McWhirter, lentamente si si torna verso l'alto, ma con molta calma, quindi dobbiamo ancora attraversare un certo guado prima di arrivare a un miglioramento. Anche se le dirò che domani, il 13 novembre, Marte lascia il segno dello Scorpione, bisogna fare una premessa che le tre borse internazionali sono tutte e tre Toro, le tre borse trainanti. Non come risalita dei mercati, ma come segno zodiacale. Immagino. Di nascita, sono cioè nate il 18 e il 17 di maggio, di anni diversi, e lei sicuramente ricorda la statua del Toro che è di fronte a Wall Street, certo, no? E quindi diciamo che in questo momento, nelle ultime settimane, Marte si opponeva duramente al sole delle borse, quindi era praticamente impossibile che ci fossero dei miglioramenti. Quindi a partire dalle prossime settimane e anche soprattutto per esempio all'inizio di dicembre abbiamo degli aspetti di Giove e Venere nel segno del Capricorno che sono molto rassicuranti, quindi io prevedo un miglioramento di sicuro. Poi però abbiamo fine anno, inizio del nuovo, nuovi alti e bassi. Io direi che forse la situazione più pesante si può dire superata. Ci sono però ancora tutta una serie di mine vaganti che voi conoscete meglio di me, insomma. Quindi lei dice dal 2009, metà 2009, ho capito bene? Anche per un pochino più avanti della metà, diciamo verso la fine estate del 2009 le cose potrebbero cominciare a migliorare. Per quanto riguarda la Borsa di Milano, i primi mesi del 2009 sembrerebbero abbastanza possibilisti, specialmente febbraio, marzo e anche dicembre non è male. Però a partire dall'autunno 2009 fino a giugno del 2010 ci sarà un aspetto di anello di stazionamento di Marte nel segno del Leone che è di nuovo sostanzialmente preoccupante. Mm-hmm. Per cui io direi che bisogna essere molto cauti, tranquilli, forse evitare, non dico neanche speculazioni, ma stare lì molto calmi e aspettare seduti sulla riva del fiume, insomma. Allora, io la ringrazio, grazie quindi all'astrologa Grazia Mirti. Le previsioni sue, devo dire, coincidono con le ultime che abbiamo visto del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea, debolezza fino a fine 2009, qualche cosa in più forse nel 2010. Grazie. Siete dei pagliacci, no, i maghi, no, che tristezza, anche l'astrologa. Beh, insomma, sì, va bene, l'ironia è una dote, è come il coraggio dei Manzoni, però nessuno vuole legittimare l'ironia e soprattutto l'astrologia come nuova analisi finanziaria, ma forse nemmeno credere come oro colato a Goldman Sachs che dice nel fine 2007 che tutte le borse terranno bene, che l'America crescerà, o Deutsche Bank che lo ripeteva il 21-12-2007, o la Federal Reserve che a gennaio 2008 diceva l'America riacquisterà vigore nella seconda metà del 2008, o magari la Banca Centrale Europea che a luglio, qualche mese fa, diceva il problema dell'Europa è l'inflazione, ecco perché alziamo i tassi. Chi vuol capire, capisce. Allora, di nuovo in diretta, metà degli ascoltatori vogliono un focus più ortodosso, ma lasciateci anche invitare l'astrologa, visto che ci ha azzeccato più di chi guadagnava milioni di dollari in stock option. Su, non è l'ironia, la serietà di certi gessati e gemelli si distrugge più che criticandoli, anche facendo sentire chi ci aveva azzeccato. Ovvio che nessuno sta dicendo che l'astrologia debba diventare la linea guida, ma insomma, per anni abbiamo condotto programmi in cui sentivamo ragionamenti sull'analisi tecnica, sui fondamentali di bilancio, su come fosse cambiato tutto, su quanto belli fossero questi strumenti strutturati che permettevano di spalmare il rischio. Poi abbiamo capito che non spalmavano solo il rischio, la borsa e le chiusure. Right, Allora, le chiusure sono meno 2,2% il MIBTEL, meno 2,3% l'S&P MIB, non sta peggiorando per fortuna l'America, meno 3% anche se ha preso una certa sberla dopo le dichiarazioni di Paulson, Parigi meno 3,1%, Francoforte meno 3%, Londra meno 1,6%, euro a 1,25%, quindi debole nei confronti del dollaro. Come sempre i mercati finanziari con Radio Corriere sulle 24 ore, Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora, Bulgari meno 7,4%, Impregilo meno 7%, Intesa meno 6,8%. Partiamo da Intesa di nuovo sotto pressione. Sì, allora già ieri le azioni avevano perso il 16% e oggi hanno finito la seduta a quasi meno 7%, meno 6,8%. Allora il mercato è rimasto deluso dai conti trimestrali che sono stati archiviati con un utile netto in ribasso a 673 milioni di euro e gli investitori hanno inoltre accolto male la notizia che Intesa San Paolo non pagherà il dividendo in contanti in modo da rafforzare la propria situazione patrimoniale. In realtà bisogna dire che la società già da tempo ha messo in conto una riduzione della cedola, ma non un azzeramento come è stato invece annunciato ieri. E infatti questo poi ha fatto frenare il titolo sul mercato a 2,34 euro. Italcementi meno 6,5, Prismia meno 5,7, Banco Popolare meno 5,7, la Banca Popolare di Milano meno 5,6. Anche qui Livia, dati trimestrali. Anche qua hanno inciso i risultati trimestrali, infatti nei 9 mesi la banca ha visto calare l'utile netto del 52,7% a 142,9 milioni e nel trimestre la flessione è stata addirittura del 75% a 17 milioni di euro. La società però ha confermato il livello di payout registrato negli ultimi anni, pari quindi al 50%. Degli utili e BPM ha sottolineato che i risultati sono stati influenzati dal deterioramento del contesto finanziario e dalla marcata volatilità dei mercati. Ancora sui titoli, tra l'altro devo dire che oggi Unicredit, l'altra grande banca, si è comportata bene, ha chiuso in positivo più 0,6, ma è arrivata a guadagnare Livia anche quasi il 5% in avvio. Sì, allora in avvio guadagnava il 5,1%, poi addirittura era salita fino a 2 euro segnando un rialzo del 7,6% e ha chiuso poi in realtà più 0,65%, passando anche qualche istante in territorio negativo quando i listini erano scesi maggiormente. E il mercato ha premiato oggi i conti, in quanto Unicredit ha chiuso il trimestre con ricavi a 6,74 miliardi, in calo dell'11,5%, ma un risultato che è comunque superiore alle attese degli analisti. Inoltre l'amministratore delegato Alessandro Profumo ha spiegato di non considerare la possibilità di fare ulteriormente ricorso al mercato per sostenere la solidità del gruppo. E proprio sui conti di Unicredit, ma anche sulla non necessità di un'altra ricapitalizzazione, sentiamo il numero uno di Unicredit, Alessandro Profumo, nella conference call oggi con gli analisti, quindi lo sentirete in inglese. I remember to you that our 6.7 is in any case having put on hold a series of other dismissal that in any case we are working on so we not consider to go to the market furthermore. E quindi non abbiamo intenzione di ricorrere ancora al mercato, perché adesso non vi sto a elencare tutti i ratio patrimoniali, perché la nostra situazione patrimoniale è più che sostenibile. Questo ha detto Alessandro Profumo, smentendo qualunque ipotesi di un'altra ricapitalizzazione dopo quella da oltre 6 miliardi realizzata. Ancora per quello che riguarda i titoli, male oggi di nuovo Bulgari, non è tanto l'euro 1,25, è quello, il peggior titolo Bulgari oggi. Sì, allora Bulgari ha iniziato ad ampliare le perdite quando i listini sono scivolati sotto la parità appena prima dell'apertura di Wall Street e è arrivata a perdere fino all'8,9% circa. Allora in realtà domani Bulgari pubblicherà la trimestrale e gli analisti non si aspettano per la società un terzo trimestre brillante. Bisogna dire che già ieri il titolo in linea al settore del lusso aveva perso il 5,78%. Gli esperti si aspettano un utile netto in calo a 35 milioni di euro, un fatturato in lieve aumento ma comunque inferiore a quello realizzato nello stesso periodo lo scorso anno e un EBIT comunque in flessione. Ancora sui titoli, per quello che riguarda chi ha perso il 5% l'abbiamo raccontato, Fondiaria, anche Mediaset ha perso il 5%, Fondiaria ha perso il 4,7%, il 4% l'ha perso Fiat, il 3,6% Buzzi Unice, ma anche Terna e Finmeccanica, il 3,3% l'Automatica, il 3,2% Eni, il 3% Geox, il 2,90%. Saipem, il 2,70%, Luxottica, il 2,6%, Enel, il 2,3%, Pirelli e Fastweb come calo. Come rialzo invece Tenaris più 4%, Atlantia più 1,1%, A2A più 1,1%, Monte dei Paschi più 1%. Fondiaria Sai? Sì, allora, Fondiaria Sai oggi ha comunicato i conti e praticamente ha mostrato un utile nei 9 mesi in calo del 16,8% a 385 milioni. La società ha dichiarato che i risultati al 30 settembre rendono prevedibili per il 2008 risultati soddisfacenti, ma è difficile prevedere l'apporto della gestione finanziaria. Sarà invece distribuito agli azionisti un dividendo in contanti, ha specificato oggi l'amministratore delegato Fausto Marchionni. Marchionni ha inoltre detto che i risultati scontano gli effetti della crisi finanziaria e la fase congiunturale recessiva, ma è fiducioso. Comunque questi sono i fattori che incidono bene o male su tutte le società e su tutte le trimestrali. Grazie, grazie a Livia Zancanelli, Radio Colli sulle 24 ore, bene anche A2A. Livia, ancora in linea? Sì. Sì, scusami, ti ho ringraziato prematuramente, perché A2A oggi c'è un giudizio serissimo, non quelli dell'astrologa nostra, ma di Moody's. Cosa dice Moody's? Sì, allora praticamente oggi Moody's ha emesso il primo rating sulla società, che domani presenterà i conti. Allora Moody's ha assegnato una 3, il che significa per esprimere l'elevata efficienza degli impianti di generazione, l'ottimo posizionamento del gruppo nei mercati dell'energia e lo stato di buona liquidità della società. E poi il direttore generale Renato Ravanelli ha spiegato che A2A ha richiesto la valutazione non perché è un programma operazione di finanziamento sul mercato dei capitali, ma per dare un segnale positivo al mercato. A chi ci scrive ancora sull'astrologa ricordo che, col massimo rispetto per Moody's, Fitch e Standard & Poor's, sono nostri ospiti molte volte, anche lì qualche previsione sbagliata sull'affidabilità dei debiti, degli strumenti di Lehman Brothers. Vogliamo andare a vedere quanto dava Standard & Poor's come voto a Lehman Brothers? Ma forse meglio di no. Nuovo in diretta per parlare anche di Alitalia. Vedo che alcuni analisti, insomma, qualcuno si è irritato per il paragone irriverente con l'astrologa. Nessuno vi ha paragonato l'astrologa, abbiamo solo detto che l'astrologa ci ha imbroccato più di molti analisti. Tutto qua, questo è agli atti, è il libro del 99, l'ha pubblicato solo 24 ore, si vanno a fare i raffronti. Alcuni di voi scrivono anche: è facile criticare le previsioni a posteriori, ma scusatemi, gli analisti, le società di rating, le società di consulenza vengono pagate per fare queste cose, non è che le facciano gratis, prendono dei soldi per dare un giudizio sull'affidabilità, non so, poniamo di Parmalat per esempio o di Lehman Brothers per esempio. Ecco, non è che le cose vengono fatte come atto volontaristico. Allora è nostro compito anche magari dire: attenzione, forse le previsioni erano sbagliate. Parliamo adesso però di Alitalia. Via libera oggi da Bruxelles al prestito ponte da 300 milioni, quello che lasciò in eredità il governo Prodi, o meglio vi fu un accordo bipartisan tra il governo uscente e il governo entrante per raddoppiarlo da 150 a 300 milioni per garantire la operatività. C'era il dubbio di cosa avrebbe detto Bruxelles. Già qualche giorno fa l'agenzia Radio Corri sulle 24 ore aveva anticipato per prima, devo dire, il via libera di Bruxelles, che ha detto però: attenzione, quei soldi sono aiuti di Stato e quindi vanno restituiti dall'Alitalia commissariata, quelle che alcuni chiamano la bad company, al governo italiano. Lo ha ribadito il commissario europeo ai trasporti Antonio Tajani. La Commissione ritiene che se la vendita degli asset di Alitalia sarà realizzata al prezzo di mercato, l'operazione non comporterà aiuti di Stato. La Commissione ritiene inoltre che non ci sia continuità tra Alitalia la compagnia aerea italiana e che gli aiuti di Stato che l'Italia ha ricevuto in passato non possono essere ascritti alla responsabilità patrimoniale della nuova compagnia aerea italiana. La Commissione ha ritenuto che il prestito di 300 milioni di euro che è stato accordato ad Alitalia è un aiuto di Stato incompatibile con il trattato e che quindi deve essere recuperato dallo Stato italiano. Come lo recupererà vedremo, cioè, c'è un commissario straordinario Fantozzi che con quello diciamo che non verrà acquisito dalla CAI venderà tutto il restante, quindi immaginiamo che essendo alcuni anche asset possa guadagnare qualcosa e dovrà ripagare tutti i creditori a partire anche dallo Stato italiano che ha prestato 300 milioni di euro. 50 i voli che risultano cancellati al momento, intanto durante l'agitazione di personale di volo e piloti per quello che riguarda la giornata odierna. Il commissario straordinario Fantozzi che dice: attenzione, ho dato mandato ai legali di Alitalia di procedere contro ignoti presso le sedi competenti per i danneggiamenti e i turbamenti dell'ordinaria attività di volo nonché i danni agli utenti. E secondo il ministro del welfare Maurizio Sacconi, ospite oggi in Extra Large, gli scioperi in atto non avranno effetti sui progetti di salvataggio e di rilancio della nuova Alitalia. Il progetto CAI va avanti, noi siamo determinati, non ci sono alternative a questo progetto, la resistenza di questi settori è destinata a perdere, a crollare di fronte all'unico modo possibile di dare una prospettiva alla compagnia di bandiera. E per quello che riguarda invece un'altra polemica a cui facevamo riferimento, ne ha parlato il ministro Sacconi sempre nel nostro GR Extra Large con Simone Spezia e Alessandra Tedesco. Che cosa era successo? Ieri sera si è appreso oggi dai giornali, vi sarebbe stato un incontro a Palazzo Grazioli a cui assieme al Presidente del Consiglio Berlusconi e ad alcuni ministri del governo avrebbero partecipato anche i segretari di CISL e UIL e alcuni ministri nonché la Presidente di Confindustria Marcegaglia. Oggi il segretario della CGIL Epifani ha detto gravissimo, si è confermato quello che è accaduto ieri, una cosa senza precedenti. E abbiamo posto la domanda, hanno posto i miei colleghi la domanda allo stesso ministro Sacconi, sentiamo la risposta laconica. Gli incontri informali rientrano per fortuna nella libertà responsabile di tutti gli attori sociali, istituzionali e sono all'ordine del giorno e tutti si incontrano con tutti continuamente. Il problema non è formale, non è formalistico, il problema è sostanziale. Si rifletta la CGIL sul fatto che di mettere continuamente veti su tutto e di non partecipare invece del necessario cambiamento che nella relazione industriale è fondamentale per poter reggere al tempo difficile al quale andiamo incontro, nel quale occorre maggiore semplicità nelle stesse relazioni industriali e soprattutto maggiore loro efficacia sia per i lavoratori che per le imprese. E allora questa l'analisi del ministro Sacconi. E 10 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, continuano ad arrivare richieste di risentire l'astrologa. No, per favore, l'ironia ha un senso quando è appunto contenuta entro i binari dell'ironia. Alcuni di voi vogliono addirittura l'appuntamento con l'astrologa ogni venerdì. Vabbè, facciamo che non parliamo né di astrologia, ma anche dei report degli analisti. Cerchiamo di parlare un po' di meno, così diamo un po' il senso delle proporzioni, visto che le cantonate, è brutto dirlo, ma hanno preso più gli analisti che gli astrologi su questo scenario. L'Istat oggi fotografa un'Italia che è già cambiata, nel senso che il rapporto Istat è del 2007, è un rapporto, è l'annuario che si chiama Istat 2008, ma fotografa l'andamento statistico del paese l'anno scorso. Già l'anno scorso, questa è la cosa forse più interessante, anche se la crisi aveva appena iniziato a dare qualche segnale dall'estate in poi, però le famiglie italiane già avvertivano le prime difficoltà economiche, e nel 2007 con 5 italiani su 10 e 6, quasi 7 su 10 nel mezzogiorno si dichiaravano insoddisfatti della propria situazione economica, come ci racconta questa scheda. Quantomeno non si può certo affermare che la crisi finanziaria ci abbia colti impreparati. Già nel 2007, ci dice l'Istat, il pessimismo sulle prospettive economiche serpeggiava nella società italiana. Più di un italiano su due esprimeva insoddisfazione per le sue condizioni economiche. Per la precisione, gli scontenti erano il 54% contro il 41% del 2006 e con un peggioramento di 20 punti percentuali negli ultimi 7 anni. Sempre più sparuta, al contrario, la pattuglia dei super ottimisti, che definivano ottima la loro situazione economica. Erano appena lo 0,8% del totale. Eppure, ad onor del vero, i dati sui depositi bancari del 2007 non apparivano così negativi. Il loro valore ammontava infatti a 750 miliardi di euro, con una crescita del 3% rispetto al 2006. E segnali che si conciliano a fatica con un peggioramento delle condizioni economiche arrivavano anche dagli acquisti di telefonini e soprattutto automobili. Oggi, rileva l'Istat, le vetture in circolazione sono ben 35 milioni e le utenze di telefonia mobile 81 milioni su 60 milioni di abitanti. C'è a questo punto da chiedersi quali sarebbero i risultati oggi con gli effetti della crisi che si stanno estendendo all'economia reale. Il rapporto si riferisce infatti al 2007, quando gli indicatori del mercato del lavoro erano sui livelli migliori dal 1992. La produzione dell'industria rallentava, ma ancora cresceva, e l'export risultava in costante crescita. Un elemento che purtroppo non resta invariato anno dopo anno sono invece gli investimenti nella ricerca scientifica e nello sviluppo, che anche nel 2007 languivano in fondo alle classifiche dei paesi occidentali, ossia circa un 1% di PIL, 16 miliardi di euro l'anno, equamente divisi tra pubblico e privato, che si raffrontano con stanziamenti proporzionalmente doppi, tripli e quadrupli di Francia, Germania, Inghilterra, Stati Uniti e Giappone. Si conferma anche la scarsa propensione ad investire nell'istruzione. Un italiano su 4 ha solo la licenza elementare, mentre i laureati sono appena 1 su 10. E quindi problemi strutturali del paese e anche qualche peggioramento su come gli italiani vedevano la loro situazione economica nel 2007. Buone notizie oggi? L'America resta con un calo del 3% sul Dow Jones. C'è una buona notizia che riguarda tutti gli appassionati sul peso e le dimensioni di cipolle, melanzane e albicocche, perché alcuni prodotti, per la precisione 26 prodotti ortofrutticoli, sono usciti dagli standard di vendita fissati dall'Europa. Gli Stati membri infatti oggi hanno approvato la proposta della Commissione europea di abolire tutti gli standard di vendita in Europa di 26 prodotti ortofrutticoli su 36 esistenti. Restano invece in vigore gli standard commerciali per i 10 prodotti che Bruxelles ritiene rappresentativi per il mercato, tra cui gli agrumi, le mele, le pesche e i pomodori. Protestano alcune organizzazioni degli agricoltori, per esempio la Confederazione Italiana Agricoltori dice che la norma è un errore gravissimo perché penalizzerà i produttori italiani, portatori di un made in Italy di eccellenza in molti settori ortofrutticoli, ma anche quelli di altri paesi mediterranei come Spagna e Grecia. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi parliamo del piano Paulson. Che cosa è successo? Paulson ha dichiarato in sostanza che la seconda parte dei 750 miliardi non servirà a comprare o a rilevare i prodotti tossici americani presenti nella pancia di banche e società finanziarie, servirà invece per garantire l'erogazione del credito. Allora, che cosa è successo oggi negli Stati Uniti? Un insieme di notizie che riguardano i mercati americani. Intanto diamo l'aggiornamento. Dow Jones meno 3,20, a chi ce lo chiede, che chiaramente ha perso l'aggiornamento di borsa. Milano ha perso il 2,2, l'S&P MIB il 2,3, Parigi meno 3, Francoforte meno 3 anch'essa, Londra meno 1,5, l'euro è a quota 1,2528, il petrolio, così diamo, diciamo, il panorama completo sui mercati, è sceso ancora e ha sfiorato i $57 per al barile a New York, tant'è che l'OPEC, l'organismo dei paesi, dei principali paesi produttori, ha detto forse convocheremo una riunione straordinaria prima del prossimo 17 dicembre. Che cosa i titoli, scusatemi, bulgari meno 7,4, in pregilo meno 7 e ancora Intesa San Paolo meno 6,8%, Ita Cementi meno 6,5, Prysmian perde il 5,7 come Banco Popolare e la Banca Popolare di Milano meno 5,6%, il 5% lo perde Mediaset e il 4,7% Fondiaria. Veniamo alle banche, molti messaggi che sono arrivati sulle banche. Allora, Unicredit che è arrivata a guadagnare oltre il 5%, ha chiuso con un più 0,6%, anche lì la trimestrale era brutta, nel senso che era tutta in calo, però migliore delle attese. Il calo è stato del 54% nell'utile a 550 milioni di euro, ma gli analisti si attendevano un utile sotto addirittura 400 milioni di euro. E poi Profumo, il numero uno di Unicredit, ha escluso un'ulteriore ricapitalizzazione. Ha perso invece in borsa di nuovo e anche parecchio Intesa San Paolo, è il terzo peggior titolo come ricordavamo, meno 6,8% assieme a una pattuglia di altri titoli bancari. E ancora tra i migliori e peggiori, visto che oggi non li abbiamo dati, Indesit Company ha perso il 13%, Risanamento il 12% e On il 10%, Campari ieri in trimestrale il 9,7%, sul fronte opposto invece Maffei Marcolin meno 7% e meno 6% rispettivamente. E poi il tema americano. Ricorderete il piano che porta il nome del segretario del tesoro americano Harry Paulson, quello che costerà circa 800 miliardi di dollari, prevede in sostanza, o prevedeva, che tutte le società e le banche americane che in pancia avessero prodotti tossici, prodotti di carta che non valgono più niente, insomma tutte quelle operazioni di cartolarizzazione o di prodotti derivati che sono crollate assieme al mercato immobiliare, dicevo, prevedeva che questi prodotti potessero essere consegnati al tesoro americano, messi in una specie di frigorifero e poi li avrebbe tenuti il tesoro americano per poi più avanti vedere cosa succedeva. In realtà, da quello che abbiamo capito, la seconda tranche di questi 800 miliardi non porterà a un acquisto degli asset tossici, come si chiamano in gergo. E anche qui, se abbiamo ben capito, il segretario Henry Paulson ritiene più efficaci gli investimenti diretti nelle banche. Ci sembra un modello più simile a quello adottato in Europa e prima fra tutti in Gran Bretagna, ma non solo, anche in Francia e in Germania. Chiedo conferma a Marco Valsani, uno dei corrispondenti del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Buonasera Marco. Buonasera, sì, sicuramente un cambio così di strategia formale, quello annunciato oggi da Harry Paulson nel briefing di aggiornamento del grande piano di salvataggio dell'alta finanza americano, una svolta già presente nei fatti in realtà, perché con la prima tranche dei fondi del piano di salvataggio il tesoro aveva iniettato capitale proprio nelle banche e non aveva finora comprato gli asset tossici, quindi non aveva, diciamo così, seguito gli obiettivi originali del piano. Oggi Paulson ha formalmente annunciato che appunto l'obiettivo originale, quello di ripulire i bilanci delle grandi istituzioni finanziarie dagli asset tossici attraverso comunque meccanismi avrebbero consentito al tesoro di comprare direttamente questi asset, in realtà questo tipo di obiettivo è accantonato, mentre procede la strategia di acquistare, di iniettare direttamente capitale nelle banche, quindi di prendere quote nelle istituzioni finanziarie e rafforzare in questo modo la loro struttura di capitale, la loro struttura finanziaria. Anche guardando al futuro, Paulson ha indicato che potrebbe anche allargare i propri confini, il piano del tesoro a istituzioni non strettamente bancarie, e che sono allo studio anche ipotesi di invitare le società che in futuro avranno accesso ai finanziamenti pubblici, ai finanziamenti del tesoro, agli aiuti del tesoro, a raccogliere a loro volta capitale privati, una sorta di così di stimolo a soluzioni, anche aiuti anche dal settore privato per le banche in difficoltà, che vadano a coadiuvare gli aiuti pubblici. L'unico settore su cui Paulson è rimasto molto prudente, ha ribadito la propria posizione, è a usare il programma di aiuti per le banche, per le istituzioni finanziarie, per aiutare l'auto. Su questo Paulson è rimasto ecco, molto cauto. E qui ti volevo, Marco, perché da un lato oggi General Motors, magari tu ce lo puoi anche confermare, era in netta ripresa. Oddio, il titolo ha perso tantissimo in queste sedute ultime, soprattutto nelle ultime due, però guadagnava oltre l'11% sull'ipotesi che arriverà alla fine il piano salva General Motors, ma anche salva Ford, salva Chrysler, insomma salva industria americana dell'auto. Abbiamo letto anche di qualche frizione tra il presidente uscente Bush e il presidente eletto Barack Obama, proprio sull'incontro, sul fatto che Obama abbia rivelato alcune dei temi toccati, ma insomma, lo fanno il piano salva auto o no in America? È sicuramente in preparazione, e i democratici, Barack Obama e i leader democratici al Congresso, stanno lavorando freneticamente per arrivare al più presto a varare un piano di salvataggio dell'auto. Obama sicuramente non vuole, cioè avrebbe sicuramente preferito evitare di prendere in mano questa patata bollente, ma non può farlo e non vuole sicuramente iniziare la sua presidenza con alle spalle, diciamo, ereditando un catastrofico fallimento di quello che lui stesso ha definito come la spina dorsale dell'industria del settore manifatturiero americano. Quindi stanno lavorando alacremente la leadership democratica e la squadra di Barack Obama per mettere a punto questo piano. Una sessione speciale del Congresso dovrebbe essere convocata la prossima settimana, proprio per andare a discutere un progetto di legge che i democratici stanno preparando. Le direttrici su cui si stanno muovendo sono molteplici, cioè il possibile accesso a fondi del TARP, cioè del programma di aiuti bancario del tesoro, possibili prestiti agevolati dalla Federal Reserve all'auto e possibile accelerazione massima dei prestiti specifici per l'auto, originalmente stanziati, così varati dal Congresso per riconvertire gli impianti e per sviluppare auto efficienti. Quindi la legislazione che sta prendendo forma dovrebbe cercare di muovere su uno o più di queste direttrici, muoverle, diciamo, in maniera rapida, proprio per sbloccare aiuti immediati all'auto, che è diventata la questione cruciale soprattutto per Obama. Certo. Obama ha anche nominato una specie di triunvirato per seguire a questo punto quotidianamente la crisi dell'auto, guidato da Daniel Tarullo, un professore di Georgetown, sì, già nell'amministrazione Clinton, esperto di questioni internazionali, e che già per Obama seguiva proprio il piano del tesoro, coadiuvato da altri due esponenti politici del Michigan, quindi del cuore della crisi dell'auto, il governatore Jennifer Granholm e sì, l'ex deputato. Quindi Marco, tu ritieni, insomma, abbastanza scontato il fatto che il piano poi arriverà, perché nelle intenzioni dei democratici, anche se sappiamo tutti che Obama aveva in mente di utilizzare questi soldi in altro modo, sulla sanità soprattutto, però è ovvio che in questo momento l'emergenza si impone nel settore, per quello che riguarda i settori produttivi dell'automobile in America. Grazie anche a Marco Vassani in collegamento con noi da New York. Ci chiedete un aggiornamento su General Motors, più 19% adesso. Per quello che riguarda invece l'Euribor, l'ultima risposta che do in questa puntata, è sceso anche oggi ai minimi d'agosto del 2007 al 4,29%, poi vedremo se le banche lo trasferiranno su clienti e imprese. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.